le ragioni sono quelle che queste settimane ci hanno mobilitato e che vedono ancora la questione della costruzione di un edificio su un parco pubblico che è sempre il cuore di quella vita del quartiere, adesso sfregiato da una colata di cemento. E ci sono insieme a questo tutte le questioni che sono aperte da un punto di vista sociale, da un punto di vista economico, da un punto di vista didattico, educativo e pedagogico al pilastro, e che in realtà ci continuano a sembrare attraversare la città, la vita della città, i processi di costruzione, di ristrutturazione urbanistica, di cementificazione stanno interessando la città dall'aeroporto alla fiera, alla Bolognina, al pilastro, fino ad affacciarsi alla zona di Fico Grand Tour, che è nelle condizioni fallimentari che tutti conoscono, ma dentro un'area di edifici costruiti con soldi pubblici e che oltretutto potrebbero essere interessati da quella rigenerazione urbana che dovrebbe interessare la realizzazione di opere come quella del MUBA, lì dove non si consumerebbe territorio e non si dovrebbe devastare il cuore della socialità di un intero rione. Un discorso che vale per il pilastro vale per tutta la città, e questo ci fa ribadire la necessità delle mobilitazioni, che sono certamente quella del 12, ma sono quelle che facciamo questa settimana e che rilanciamo per le prossime. Oggi pomeriggio si terrà un'iniziativa di discussione su quelle che sono le necessità della scuola nel quartiere e più in generale della scuola in una città come Bologna, relativamente a per esempio l'abbandono scolastico, che al pilastro ha una delle sue punte più alte, non a Bologna, in Italia, e lo facciamo con pedagogisti, insegnanti, famiglie, ragazzi, studenti, tutti coloro che da questo punto di vista possono portare un contributo. E lo facciamo questo nel momento in cui, ad esempio, il Comune lancia per l'11 un convegno cittadino sul MUBA, ma ancora di contenuti specifici e di quello che sarà il modo di realizzare, di funzionare di questo museo non parla. Addirittura non c'è ancora esattamente il nome di chi interverrà a questo convegno. Non sappiamo se chi si è iscritto a parlare, anche portando posizioni diverse, avrà diritto di cittadinanza. La nostra risposta invece vuole essere puntuale sulle questioni che sono aperte e che ci hanno portato a mobilitarci. Proprio sul convegno organizzato dal Comune per l'11, a cui tra l'altro l'assessore Ara ha detto che è aperto a tutti, a chi vuole conoscere il progetto, vuole arricchirlo e non a chi invece agita azioni violente. Voi come vi ponete? Parteciperete? Noi non abbiamo nessuna partecipazione diretta, sappiamo che saranno presenti persone che probabilmente porteranno anche una visione diversa. Io ricordo che ci sono le firme di 300 insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado di Bologna e di facoltà universitarie che contestano questo progetto. Sono questi i violenti. Sulla questione della violenza io faccio notare che la violenza l'abbiamo vissuta noi direttamente sulla nostra pelle e sulle nostre ossa. L'ha vissuta il rione Pilastro con una militarizzazione che a Bologna ha, se si esclude la vicenda universitaria del 77, in condizioni politiche della città e del paese tutte diverse. Una militarizzazione di questo tipo in un quartiere urbano popolare non si vedeva dal 43-45, ed erano i nazifascisti a farla per i rastrellamenti. Noi l'abbiamo vissuta con i lacrimogeni lanciati ad altezza Duomo in una quantità infernale che ha aggassato un intero quartiere, e questo è quello di cui ci siamo trovati di fronte. Sulla questione della violenza io faccio notare che una lotta sociale come quella che abbiamo intrapreso alla luce del sole al pilastro, se compressa appunto militarmente, lasciata senza vie di sfogo, senza possibilità di incidere in quella che è la scelta che un'amministrazione che si definisce progressista dovrebbe invece attuare, beh, questo è chiaro che ingenera una situazione di tensione e di frustrazione molto elevate. Ma non è compito di un comitato che sta sollevando una questione di carattere sociale ed economico occuparsi anche dell'ordine pubblico. Questo è compito delle forze dell'ordine e dell'amministrazione che l'ha invocata, in questo caso l'amministrazione comunale, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Per venerdì è prevista un'assemblea al parco. Quali saranno i contenuti di questa assemblea? I contenuti sono appunto il rilancio dell'iniziativa e anche fare il punto rispetto a una mobilitazione che certo è andata avanti, è progredita, ha raccolto e aperto anche una discussione in città gli intellettuali bolognesi, posso citare il nome di Boarelli, posso citare Pier Giorgio Ardeni, posso citare Wu Ming, posso citare una personalità come quella di Beppe Ramina, di questo dibattono, ma sembra che lo si faccia nel vuoto pneumatico. L'assemblea è l'occasione per chiamare tutte le realtà che si sono mobilitate insieme al Mubasta, penso a tutti i comitati cittadini che nei loro territori vivono esperienze simili, come il Besta, come il Lazzaretto Bertalia, come i Prati di Caprara, e vivono condizioni simili, e rilanciare una mobilitazione che, lo ripeto ancora una volta, l'ho detto ormai migliaia di volte, non riguarda solo la vicenda specifica del Muba, ma riguarda l'atteggiamento che si ha da parte dell'amministrazione comunale rispetto all'intervento urbanistico e cementificatorio della città di Bologna nel suo complesso. Noi l'abbiamo detto, pensano di costruirlo questo museo a queste condizioni, hanno fatto già la gettata di cemento, bene, noi accompagneremo con la nostra protesta, la nostra mobilitazione, la nostra capacità di discutere con la città e con gli abitanti del rione di quelle che sono le questioni aperte. Questo è quello che noi possiamo fare.